دسه في الوطن من اجل دمك اخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها اخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام اخي ما بيوصف معنى كلمة تكون انسان اخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي اخي انت لم تمت اخي عشت بنصي اخي لن تختفي اخي لا يتخلد اسمك في غزتي اخي صاحب العرض وغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايتي بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارض تناديكم خدر المعادي بشد على الايادي الايادي بساعد محم الموت قلب طابق بالصوت ورافض السكوت وصاحب علم الصوت اناديكم اشد اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتغطى الوداع هو الابقى بالحق رمز إرادة الشعب احكي فيتوريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر زي فيتوريو اخي سلام عليك من كل اخ لديك اكتسبته بغزة احكي فيتوريو احنا إلنا اخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للابد انت فلسطيني فيك انت فلسطيني وانا اناديكم اشد على اياديكم وابوس الارض تحت نعالكم e 19:32 minuti primi in ascolto dai microfoni di Radio Default andiamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi sulla Palestina occupata. Ricordiamo velocemente i contatti della radio www.radiodefault.it per essere aggiornati in continuazione su le nostre iniziative, il nostro palinsesto, per trovare anche i podcast delle nostre trasmissioni. Poi c'è la nostra pagina Facebook Radio Default in cui potete essere aggiornati in tempo reale su ciò che la radio trasmette, oltre che essere aggiornati in tempo reale su ciò che avviene in questo mondo e per essere aggiornati sulle lotte che avvengono in questo mondo, e poi potete sempre venirci a trovare nei nostri studios di Via Guido Baldi 56 a Genzano di Roma, dove potete interagire con la nostra redazione, potete intervenire nelle trasmissioni o magari potete soltanto venire a farvi una birretta e quindi sostenere economicamente questa radio che non campa di aria ma campa delle sottoscrizioni e di chi la vive, di chi l'ascolta e di chi la ama. E quindi iniziamo questa trasmissione. Oggi volevamo iniziare con una visto che questa è l'ultima puntata prima della pausa estiva, volevamo fare prima di passare alle interviste, volevamo fare un bilancio di ciò che è stato questa seconda stagione di Radio Cufia con i nostri successi, i nostri insuccessi, ricordare un po' i temi di cui abbiamo parlato in quest'anno che è stato non solo pregno di lotte in Italia e nei castelli romani, ma anche pregno di lotte in Palestina, però purtroppo c'è stato un fatto increscioso, la repressione che la dura repressione che si era scagliata contro il popolo palestinese da parte dell'occupante sionista è andata ancora increscendo a causa del ritrovamento dei corpi dei tre coloni presi dalla resistenza ormai il 12 giugno scorso, e quindi una situazione abbastanza complicata che ha visto sia l'intensificarsi della repressione in West Bank sia l'intensificarsi dei bombardamenti sulla striscia di Gaza. E quindi il nostro pensiero, non avevamo voglia di parlare, di essere troppo celebrativi sulla nostra trasmissione, e oltretutto si è verificato anche un fatto increscioso qua in Italia. Lunedì scorso c'è stata una manifestazione, si doveva tenere un presidio di solidarietà a Piazza Venezia in solidarietà con la popolazione palestinese, appunto, che sta sotto la cocente repressione sionista, e manifestazione che ha visto che non si è potuta tenere perché la polizia ha pensato bene di farla annullare dopo che una squadraccia di picchiatori provenienti dagli ambienti del sionismo romano ha aggredito un compagno di 27 anni che stava venendo alla manifestazione, riconosciuto perché indossava una cuffia, picchiato e poi in seguito ricoverato al Fate Bene Fratelli, e quindi la polizia ha pensato bene di sfruttare questo momento per impedire il legittimo esercizio di democrazia nel nostro paese, e quindi un altro motivo per non essere troppo felici. Inoltre, la stessa sera, sempre le squadracce sioniste hanno portato avanti delle azioni di intimidazione contro l'ambasciata palestinese. Noi, da chi ci ascolta da questi microfoni, sa quanto poco ci piacciono le ambasciate e l'autorità nazionale palestinese, ma riteniamo che sia molto grave ciò che è successo martedì sera, con appunto delle scritte infamanti tracciate sul muro dell'ambasciata, e poi una macchina che è passata a tutta velocità in via Guido Baccelli vicino al Circo Massimo, e da cui sono stati sparati dei colpi di pistola all'indirizzo appunto dell'edificio dell'ambasciata. Quindi un fatto estremamente grave che oltretutto ricordiamoci che in teoria l'ambasciata, come tutte le ambasciate, dovrebbe essere presidiata dai militari italiani, che visto che ogni Stato che ospita un'ambasciata si deve anche accollare, secondo le norme del diritto internazionale, la difesa di questi luoghi, e invece i militari non pare che non si siano mossi, non abbiano mosso pezza, e quindi queste squadracce sioniste imperversano per la nostra città facendo il bello e il cattivo tempo. Questa ormai l'ennesima aggressione e in questo caso attentato con armi da fuoco che si svolge nella nostra città ai danni di gente qualunque, di attivisti solidali, e quindi forse bisognerebbe cominciare a discutere di quali spazi di agibilità democratica ci sono nella nostra città, e soprattutto le istituzioni che ogni volta che si lancia una bottiglia in un corteo, durante un corteo, si sperticano in peana a sostegno delle forze dell'ordine e tacciano di terrorismo ed altro, e poi quando avvengono questi eventi, che ricordiamo non sono i primi che si svolgono in questo modo, quando avvengono questi eventi si chiudono in un assordante silenzio e anzi magari vanno anche a fomentare i deliri nazionalisti e sionisti di questi componenti della città romana, magari facendo come Ignazio Marino, che vuole appiccare le foto di tre coloni illegali che stanno illegalmente ad occupare la terra di Palestina. Noi riteniamo che non

16:59 minuti primi, siamo sempre dai microfoni di Radio Default. Questo è uno speciale di Radio Cufia, un po' fuori orario, perché siamo qua oggi con una compagna del Palestinian Youth Movement per parlare un po' della situazione politica generale della Palestina e della regione. E ciao Miriam. Ciao Emanuele. Allora Miriam, tu sei appartieni al Palestinian Youth Movement, il movimento dei giovani palestinesi. Se ci potevi spiegare cos'è questo movimento, o come è strutturato, dove agisce? Ok, sì sì. Allora, il Palestinian Youth Movement è un movimento transnazionale che è stato fondato da giovani palestinesi che vengono dalla Palestina e che sono in esilio in tutto il mondo. È un movimento che cerca appunto di riunire le nuove generazioni in un unico corpo, diciamo, che riesca appunto a far sentire la nostra voce, la voce di una nuova generazione che vuole riorganizzare la lotta su una linea programmatica ed organizzativa unitaria, con obiettivi politici e strategie condivise collettivamente. Il PYM è nato nel 2006, inizialmente è nato come network, quindi si chiamava Palestinian Youth Network, è nato appunto dall'iniziativa di alcuni giovani che all'epoca si trovavano in Spagna di riunire varie realtà, associazioni, gruppi di giovani palestinesi che si trovavano sia in Europa che in Medio Oriente. La prima riunione appunto ha visto la partecipazione di 40 giovani provenienti da parecchi paesi di Europa. Noi abbiamo partecipato come associazione dei giovani palestinesi Wild Rider, che è un'associazione che era stata fondata nel 2005 da palestinesi e italo-palestinesi a Roma e nei dintorni di Roma. E come nuova generazione di palestinesi abbiamo sentito l'esigenza di confrontarci anche con altri palestinesi che venivano da background diversi e da condizioni diverse, capire appunto come la nostra identità era vissuta, confrontarci con loro sulle esperienze diverse sia da parte nostra appunto che viviamo in esilio in paesi occidentali che con i palestinesi che vivono l'esilio in altri paesi, appunto in altre zone del mondo, e ovviamente con i palestinesi che vengono dalla Palestina. Da questa esigenza e da questo confronto è nata subito l'esigenza di creare qualcosa che potesse effettivamente esprimere la nostra voglia di unità, ma quando parlo di unità non uso questa parola in senso retorico, come appunto lavorare insieme e assicurarci che ci sia appunto questa visione, diciamo, idilliaca della comunità. No, quando parliamo di unità noi ci riferiamo ad un'unità che sia fondamentalmente politica e che si basi su quelli che erano i principi originali della nostra lotta, cioè una lotta per la liberazione e per la giustizia, una lotta che non escluda ovviamente nessun settore della nostra società, che rigetti la frammentazione sociale e politica che gli ultimi 20, se non più, anni di negoziati e di svendita della causa hanno generato. Quindi da questo movimento, da questo network che era nato nel 2006, nel 2011 è emerso poi questo movimento, cioè il Palestinian Youth Movement. C'è stata questa trasformazione che ha voluto significare una presa di posizione molto più cosciente dal punto di vista politico da parte di questi giovani. Il PYM quindi ha anche subito una trasformazione nella struttura. Se all'inizio ci eravamo uniti come appunto gruppi di palestinesi già organizzati nei paesi in cui viviamo, abbiamo poi deciso invece di allargare la membership a tutti gli individui che volessero appunto parteciparvi e quindi è diventato un movimento con membri che poi fondamentalmente si trovano un po' in tutto il mondo. Esistono delle branch, cioè delle organizzazioni locali proprio, che poi appunto sono inglobate nell'organizzazione internazionale del movimento. Al momento le branch più attive sono quelle della Giordania, quelle della Svezia, della Francia, in Palestina ovviamente ce n'è una, negli Stati Uniti, in Libano, e ci sono poi dei membri che stanno appunto lavorando per l'organizzazione di una branch anche in altri, insomma, in altri paesi europei, quello che ci insomma, e anche mondiali. Quello che più ci preme però è proprio ribadire il fatto che come nuove generazioni siamo consapevoli che le diversità dalle quali veniamo fuori, perché poi di fatto tanti di noi sono nati in esilio e quindi abbiamo dei background che sono anche diversi, sia per esperienza politica che per proprio per vissuto quotidiano della nostra palestinità. Queste diversità però non devono assolutamente impedirci di ritrovare e confrontarci e riunificarci su una visione che sia basata appunto sulla necessità di lottare per la giustizia e la liberazione. Questi due principi sono alla base della causa palestinese, erano alla base della causa palestinese quando il nostro popolo ha cominciato a lottare, e non possiamo appunto, non possiamo prescindere da questi ideali. Non possiamo inoltre prescindere dagli ideali di solidarietà con tutti gli altri popoli che stanno lottando per la liberazione e per la libertà, contro l'oppressione, contro il neocolonialismo, contro l'imperialismo. Quindi crediamo che la nostra lotta vada anche analizzata e interpretata all'interno di uno scacchiere più grande che ci vede tutti, senza distinzione di identità, appunto, senza distinzione di nazionalità, coinvolti in una lotta che sia appunto che tende appunto a sconfiggere ogni tipo di oppressione e di sfruttamento dei popoli. E tu hai parlato appunto di principi cardini del PYM, giustizia e liberazione. E secondo voi come devono essere declinati, visto che insomma il movimento di solidarietà internazionale negli ultimi anni pare che vacilli, soprattutto quando si parli di giustizia e ancora di più quando si parla di liberazione. Secondo voi come vanno declinati questi due ideali? Ma quello che noi pensiamo è che parlare di soluzioni per la questione palestinese senza tenere presente la necessità appunto di trovare una soluzione giusta è piuttosto, diciamo, paradossale, e nessuna soluzione sarà mai effettivamente efficace se non è una soluzione basata sulla giustizia. Ed è per questo che noi insistiamo tanto su questo concetto di giustizia, più ancora che su ogni altro concetto. Preferiamo parlare di giustizia anche più di quanto si parli di diritti in realtà, perché anche la definizione di diritto umano a volte è un pochino relativa, no? Dipende da chi la adopera. Quindi il concetto di giustizia in realtà dovrebbe essere qualcosa che arrivi un pochino più direttamente al cuore di quello che è di fatto di quello che dovrebbe essere appunto una possibile soluzione. Quello che intendo dire è che non si può parlare di confini, di terra, di la famosa formula, no? Pace per terra, peace for land, come dicevano appunto ad Oslo, se non anche prima. Non si può parlare di negoziazioni, non si può parlare di queste questioni che spostano completamente il cuore della lotta. Cioè noi non stiamo lottando per dei confini o uno Stato in sé per sé, inteso come terra e come contentino per delle aspirazioni appunto nazionaliste. Noi non stiamo parlando di questo, noi stiamo parlando della libertà di ogni popolo a vivere sulla sua terra. La liberazione di cui parliamo noi è una liberazione che è fortemente e completamente legata al concetto di ritorno dei propri palestinesi, al concetto appunto di garantire la fine di quell'ingiustizia che da 70 anni i palestinesi vivono, in tutte le sue dimensioni, quindi non soltanto come appunto come appunto contentino territoriale, ma nella sua totalità, quindi una liberazione, la possibilità appunto di ritornare a vivere nei loro paesi d'origine per tutti i palestinesi che sono oggi rifugiati, la possibilità appunto di sentirsi risarciti a livello anche morale e psicologico di tanta ingiustizia. E ovviamente ricordiamo che mediamente quando si conosce per la prima volta un palestinese profugo la cui famiglia è stata cacciata nel 48, la prima cosa che dice quando gli chiedi da dove vieni, ti parla del suo villaggio, dei suoi nonni del 1948, quindi insomma elemento che forse non è così secondario come parte della solidarietà internazionale, cosiddetta solidarietà internazionale, vorrebbe far credere. E insomma, abbiamo visto che ultimamente in Palestina si stanno muovendo un po' di cose. Abbiamo avuto la riconciliazione, la cosiddetta riconciliazione tra Hamas e Fatah, abbiamo avuto uno sciopero della fame dei detenuti, dei prigionieri politici in detenzione amministrativa, che è finito la settimana scorsa e oggi ufficialmente l'ultimo detenuto pare che abbia trovato un accordo con le autorità carcerarie sioniste, interrompendo il suo sciopero della fame di oltre 6 mesi. E in più c'è stato appunto la sparizione di questi 3 coloni, che ha visto una stretta repressiva sulla West Bank e la ripresa, un'intensificazione, perché poi non sono mai terminati, di attacchi sulla striscia di Gaza. Voi come valutate il quadro politico palestinese, la situazione politica generale palestinese in questo periodo, soprattutto alla luce di questa cosiddetta riconciliazione tra le due principali organizzazioni del popolo palestinese? Guarda, per essere molto diretta, ben venga la riconciliazione, ma fondamentalmente non è una priorità, ecco, no? Nel senso, siamo contenti se le fazioni palestinesi possano pensare di aver trovato un accordo, ma onestamente un'analisi critica di quello che questo accordo significa fa svanire un po' questi sogni romantici e queste ambizioni così molto, molto rose che molti hanno avuto e che tanti avevano posto su questo appello all'unità e all'unificazione del movimento nazionale. Questo accordo, per quanto mi riguarda, è semplicemente il risultato di una serie di trasformazioni internazionali, o per meglio dire di trasformazioni regionali, che serviva sia a Fatah che ad Hamas per garantirsi un minimo di legittimità in più e un qualche spazio per manovre politiche un pochino più ampio all'interno appunto dello scacchiere regionale. Hamas si sente appunto sotto pressione per la politica appunto che si porta avanti in Egitto, chiaramente anti Fratelli Musulmani e di conseguenza anti Hamas, e spera appunto di riuscire a ritrovare un pochino più di spazio politico firmando questo accordo con Fatah. Allo stesso modo Abu Mazen ha bisogno di questo accordo con Hamas per tentare di riacquistare un minimo di credibilità e legittimità di fronte alla popolazione e soprattutto per guadagnarsi i favori degli stati del Golfo e quindi insomma anche il loro supporto economico. Oltre a questo c'è da dire che chiaramente per Abu Mazen poter adoperare questo accordo con Hamas nei negoziati, nelle trattative con l'America o con i sionisti è un altro asso nella manica, o forse anche l'unico asso nella manica, perché può a tratti usarlo secondo le sue convenienze o dire ma io appunto vi sto facendo il favore di tenere un pochino a freno Hamas, oppure dire ma se io poi lascio andare Hamas non so più, non posso garantire per voi, non posso garantirvi cosa succederà. Quindi fondamentalmente questa oltretutto, scusami, faccio un altro inciso, questo accordo non ha fondamentalmente nessun senso reale per quanto ci riguarda, perché è un altro accordo che viene, cioè che si basa esclusivamente su delle appunto questioni molto pratiche e di spartizione di potere, e non prende assolutamente in considerazione i principi che dovrebbero ispirare un movimento di liberazione, perché appunto quello che di cui parlavamo prima, questo movimento si sta atteggiando da un apparato quasi statale. Tutte le politiche che porta avanti, incluso questo accordo di riconciliazione, fanno parte di quell'approccio da state building che ormai caratterizza il movimento palestinese. Ma noi non siamo uno Stato, in questo momento non ci interessa essere uno Stato, noi siamo un movimento di liberazione rivoluzionario e non c'è nessun principio di questo tipo all'interno di questo accordo, di questa riconciliazione. Cioè manca di nuovo quello che dicevo prima, un principio unificante, un collante appunto ideologico che ispiri la lotta, che ispiri il movimento. Di conseguenza questo accordo rimane fondamentalmente vuoto, rimane un giocattolino nelle loro mani per continuare a vantare una qualsivoglia legittimità di fronte a terzi. Di fatto questa leadership, e mi riferisco in particolare a quella dell'ANP, Abu Mazen e tutti i suoi compagnia bella, rimangono una leadership non legittimata da nessun supporto popolare. Sono distanti anni luce dal popolo, e gli esempi che hai portato tu di un popolo che appunto continua a tentare di resistere, continua ad elaborare strategie come appunto quella dello sciopero della fame all'interno delle prigioni sioniste, dimostrano proprio la lontananza abissale che esiste oggi tra il popolo palestinese e questa leadership. Una leadership che fa il lavoro dei sionisti, che aiuta i sionisti nell'oppressione del suo popolo, che garantisce gli interessi sionisti e coloniali nella Palestina occupata, è ovviamente, noi lo riconosciamo, il risultato del colonialismo, ma è allo stesso tempo colpevole per non redimersi da questa posizione, per non essersi tirata indietro da questa posizione. Insomma, cioè, fatto un quadro appunto di ascari che si mettono d'accordo per fare un governo. E tra l'altro abbiamo anche dai nostri microfoni abbiamo anche parlato delle varie vicissitudini che ha subito la riconciliazione, che si sostanziava fondamentalmente su quali ministri, su quale fazione dovesse prendere quali ministri. Tra l'altro mi pare colloqui che abbiano interessato soltanto Hamas e Fatah, ma tutte le altre fazioni palestinesi sono state totalmente ignorate, come ha dichiarato anche il Fronte Popolare, il Fronte Democratico. E insomma, sembra che come diceva una compagna che abbiamo sentito un mesetto fa da questi microfoni, si è andati a sanare una microdivisione che si è nata in seno al popolo palestinese, ma non si è andata a sanare la divisione fondamentale in seno alla società palestinese, che è quella dovuta agli accordi di Oslo. Secondo te un movimento popolare, abbiamo visto una settimana fa i giovani di Ramallah che assaltavano la stazione di polizia di Ramallah in opposizione agli accordi di collaborazione sulla sicurezza con l'entità sionista, secondo te quanto può venire dal popolo invece un'opposizione a questi accordi di Oslo? Guarda, io sono abbastanza ottimista in questo senso, cioè credo che ci vorrà un pochino di tempo, ma sono sicura che il popolo palestinese e i giovani palestinesi non lasceranno cadere questa speranza. C'è un'analisi molto chiara e lucida da parte delle nuove generazioni palestinesi, ci sono dei tentativi di riattivare la base, appunto, la base popolare in Palestina, e di collegarla anche a tutti gli altri settori della popolazione che si trovano in esilio. È chiaro che è un lavoro che richiede tempo, perché proprio quegli accordi di Oslo, appunto, ai quali tu facevi riferimento, hanno diciamo, cristallizzato, generato e proprio ratificato, formalizzato in tutte le sue forme, una divisione che è all'interno, una frattura all'interno della società che ha veramente un po' tagliato le gambe all'attivismo di base. Questo è un problema di fatto. La società palestinese è stata per parecchi decenni, insomma, fortemente mobilizzata, da parte dei partiti e da parte delle varie unioni, i vari sindacati che esistevano. Tutte queste realtà non esistono più, i partiti, perché hanno perso, come dicevo prima, completamente legittimità. Fatah probabilmente più degli altri, perché è sempre stato ovviamente il partito leader nel movimento di liberazione, ma anche le altre comunque non sono riuscite a tenere il passo con i cambiamenti politici e sociali che hanno caratterizzato la regione e che la stanno caratterizzando soprattutto in questi ultimi anni. Quindi, dicevo, la mancanza di questi partiti, l'assopimento totale che Oslo ha portato all'interno di tutte le organizzazioni popolari è stato un colpo durissimo, soprattutto per le nuove generazioni che adesso devono ricominciare da capo, devono ritrovare delle nuove strategie di riorganizzazione che sappiano appunto imparare dagli errori fatti in precedenza e che trovino però appunto una nuova strada sulla quale poi indirizzarsi. Questo non è facile e richiede un po' di tempo, chiaramente, però sono assolutamente convinta e vedo anche, insomma, i primi segnali nella stessa società palestinese che questo appunto si sta delineando all'orizzonte. Sono tanti i giovani palestinesi che si sono già attivati. Quello che manca, come dicevo prima, ancora è la capacità appunto di riorganizzarsi in maniera unitaria. Spesso vediamo appunto parecchi movimenti nascere per poi morire dopo pochi mesi o giusto, ecco, qualche anno. Dobbiamo piano piano riprenderci, insomma, imparare anche a non lavorare in questa maniera. Dobbiamo imparare ad essere un pochino più coordinati. Penso che però un bel esempio da questo punto di vista si sia visto per esempio con il piano Power e con le organizzazioni, con le manifestazioni e tutta la lotta che è stata fatta in quel senso. Io credo che questa non sia una cosa da sottovalutare, perché la portata delle manifestazioni contro il piano Power è stata secondo me molto interessante, perché ha visto proprio la collaborazione diretta di tutte le diverse entità geografiche, per chiamarle così, insomma, che compongono oggi la società palestinese. I palestinesi del 48, i palestinesi in Cisgiordania, a Gaza, i palestinesi in esilio, tutti si sono attivati in maniera più o meno coordinata per lo stesso obiettivo. Questa chiaramente era solo una campagna ed era una cosa, diciamo, una goccia nel mare che costituisce la lotta del popolo palestinese, però è il primo segnale che le nuove generazioni stanno capendo che soltanto coordinandosi tutti insieme, soltanto mobilitandosi sulla stessa piattaforma, piano piano potranno emergere delle strategie che poi, insomma, possano costituire effettivamente una lotta di successo. E questo lo ricordava anche un articolo del dottor Raida Raid dell'Università Al-Quds di Gaza, in cui spiegava proprio come, forse lui facendo forse un po' troppo riferimento sull'utilizzo dei social network, però insomma spiegava appunto questo nuovo tipo di mobilitazione che spesso ha anche travalicato le organizzazioni tradizionali. E io ora farei uno stacchetto musicale, torniamo fra 3 minuti. Questo è il rapper siriano Abu Hajar che canta, questa è la sua ultima traccia, Abbasso la madre patria. هو الرسالة للأسد أو نحرق البلد لو ابتعد عن البلد ما حد حاله واحد أحد لو استمعنا للقمع لو ما اطمع سد السمع كنا بنيمة وطل مكان تجمع هالوجع لما الناس عم بطالب بالإصلاح من كتر الإفلاس من كتر ما الكرامة بتنداس صوت رصاص عم تتواجه المطالب قتل الناس بدون إحساس تلغي فكرة الوطنية من الأساس زدت الخزنة خوف الحي من الحي عن الحي بتقطع المي من الطي وخوف الفي من الفي ومن أخمصي حي عم يطلع الرصاص وحي على أقواص وناس تتفرغ حكي على الشاشة على الفتنة عجبتني أول الأحداث سمع الناس حكي عن الوطنية خلي تعريفات غبية وهي أنا القائد وأنتوا أكثرية وأقلية اللي من عليه المسؤولية يسقط الوطن إذا بدي أعيش بذل والكل كل أو يتعود على كل يسقط الوطن إذا بدي أعيش بخوف وشلوف كلاشينكوف أو أني متمول التوب يسقط الوطن إذا بدي أعيش بذل والكل كل أو يتعود على كل يسقط الوطن إذا بدي أعيش بخوف وشلوف كلاشينكوف أو أني متمول التوب انت اللي بدك تحمينا تتماطع فينا تخلينا نخاف من سلاحك سفاحك بيهزق فينا ما خفنا من سلاحه راحوا رجالك اجوا وارتاحوا بمكانه حكمونا مثل بزمانه كانه عبوا مكانه ما عملنا ثوره حتى نبدل بوطه فيني ما عملنا ثوره حتى نخلق له مثله شريك احنا بنحميك نقويك فكرك القوه بتكفيك وقت اللي بدك تزيد عن حدك ما بنخليك شوف ارتعب من غضب عبى الشوارع التهب عتب انكتب عيلة بصخب ودفع للهارة الشعب التهب وخطر عبر من حلت السكته بالخطب سكت عوجع وبلع ومنع وشوح حالة الطرف أنا خلاص ما عاد فيك تحكمني بالقوة أنا خلاص ما فيك تحكمني مثله هو أنا متمرد على حالي على القمع كيف ما كان هيدي الرسالة التانية بتوقع معروف العنوان يسقط الوطن إذا بدي أعيش بذل والكل يفل أو يتعود على كل يسقط الوطن إذا بدي أعيش بخوف وشلوف كلاشينكوف أو أني نتمول الثوب يسقط الوطن إذا بدي أعيش بذل والكل يفل أو يتعود على كل يسقط الوطن إذا بدي أعيش بخوف مين هتا نصاب ريس رأتا ضياع بطا عن تم عباد ولاد الثورة غر رأتا من ماله بهالحال الثورة ضيعت شكله وخربتها سؤاله عن فال من زمان الثورة انت تدهورتا وصلت لها الحالة لما صار وقع نزباله شو بيشتغل حضرته ناشط إغاثي مكتب ماله الحا اسلوب ونهاب اترك الناس بعذاب افتح بالبنك حساب احسب احسب من بكرة الأسوأ بكرة بتغرق بكرة الناس من جوعة بتخلق يسقط الوطن إذا بدي أعيش بذل والكل يفل أو يتعود على كل يسقط الوطن إذا بدي أعيش بخوف وشلوف كلاشينكوف أو أني نتمول التوب يسقط الوطن إذا بدي أعيش بذل والكل يفل أو يتعود على كل يسقط الوطن إذا بدي أعيش بخوف وشلوف كلاشينكوف أو أني نتمول التوب E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento analisi sulla Palestina occupata, sempre dalle frequenze di Radio Default. Noi siamo qua oggi con Miriam, una compagna del Palestinian Youth Movement, il movimento dei giovani palestinesi. Stiamo facendoci una chiacchierata sulla politica locale, sulla politica, sul quadro politico generale del popolo palestinese, ma ora andiamo un po' più sul regionale, sperando che gli ascoltatori non si facciano venire troppi pruriti. E Miriam, noi abbiamo visto dal 2011 tutta una serie di mobilitazioni nei paesi arabi, ma potremmo dire in quasi tutto il Mediterraneo, a partire dalla Tunisia, l'Egitto, la Siria, la Libia e via dicendo, manifestazioni che hanno portato alla caduta o comunque alla sfida dei regimi attualmente che erano al potere da 20, 30 o passa anni e soprattutto regimi che hanno visto una forte composizione giovanile nelle piazze e che soprattutto in alcuni casi hanno portato anche ad azioni in solidarietà col popolo palestinese molto forti, penso al saccheggio dell'ambasciata sionista al Cairo nel luglio del 2011 o comunque anche a tutte le mobilitazioni che sempre nel 2011 sono avvenute che hanno portato avanti i profughi palestinesi che dai confini della Giordania, del Libano, dell'Egitto e della Siria hanno provato a premere su quei confini che l'entità sionista tiene sbarrati da 67 anni. Secondo voi questo nuovo attivismo o questa ondata rivoluzionaria, che ora sembra oggettivamente in una fase abbastanza di stanca, soprattutto se parliamo di Egitto e Siria, come possono influire sulla lotta di liberazione del popolo palestinese e come soprattutto se possono influire positivamente su questa lotta? Guarda, Emanuele, io sono abbastanza convinta, di nuovo appunto, sono molto positiva, molto ottimista su questa cosa e penso che sì, le rivoluzioni arabe possano influire e hanno già influito in realtà sulla lotta del popolo palestinese e di nuovo soprattutto sulle nuove generazioni di palestinesi. Ti racconto un attimino che cosa è successo nel 2012 con il Palestinian Youth Movement in particolare, perché appunto il nostro movimento ha organizzato nel dicembre del 2012 a Tunisi la prima conferenza dei giovani arabi per la liberazione e la dignità. Questa conferenza era una conferenza volta proprio a tutti i giovani arabi che si stavano battendo per un cambiamento radicale ognuno nel suo paese. Hanno partecipato quindi a questa conferenza rappresentanti giovanili, insomma, di tutte le organizzazioni che caratterizzano appunto la regione oggi. Il confronto è stato ovviamente un confronto a tratti anche aspro, un dibattito molto, molto acceso, spesso e volentieri, per capire dove si sta andando e soprattutto per ribadire che questo cammino, per quanto possa sembrare individuale, specifico ad ogni caso particolare, ad ogni paese particolare, è comunque un cammino che gli arabi devono intraprendere insieme, collettivamente. Questa conferenza è stata appunto un primo tentativo, devo dire anche abbastanza riuscito, di delineare questo sforzo collettivo, l'importanza per la comunità araba in generale di coordinare le differenti lotte e le differenti richieste che ogni paese, appunto, che ogni specifica specifico, insomma, contesto presentava. Su questo non c'è nessun dubbio, cioè sul fatto che le rivoluzioni arabe siano delle rivoluzioni che abbiano a cuore la lotta palestinese non c'è assolutamente nessun dubbio. Moltissimi dei nostri appunto coetanei che hanno partecipato alla conferenza hanno ribadito l'importanza fondamentale della lotta palestinese all'interno del contesto regionale. Se mi permetti ti leggo velocemente, se lo ritrovo in due secondi, eccolo. Il paragrafo finale della dichiarazione congiunta che è stata poi firmata appunto dai rappresentanti giovanili di varie organizzazioni all'interno della conferenza, che ribadisce proprio questo contesto. Questo paragrafo appunto recita: si ritorna in Palestina per mezzo della liberazione e con dignità, e non con attese e compromessi, da tutte le regioni, urbane e rurali, con lo spirito di rivolta generato dalle ingiustizie e la motivazione collettiva ad affrontarle. La liberazione dalla Palestina e di altri territori arabi occupati sarà raggiunta non senza l'istituzione di un'entità politica, un movimento nazionale, con obiettivi unitari che imponga la fine di qualsiasi sistema di dipendenza e di dominio e chieda la liberazione della Palestina dal Giordano al Mediterraneo. Oltre ovviamente questo paragrafo, oltre a ribadire l'importanza appunto di portare avanti una lotta che sia basata su questo concetto di giustizia e di liberazione appunto di cui parlavamo prima, ribadisce anche la necessità di continuare a lottare insieme. E questi giovani hanno tutti sottolineato quanto le rivoluzioni arabe e la lotta palestinese siano fortemente interconnesse. Quello che si è detto è che non esisterà mai un mondo arabo veramente libero dalle dinamiche neocoloniali fino a che la Palestina non sarà liberata. E allo stesso modo la liberazione della Palestina non sarà mai una liberazione totale fino a che il mondo arabo non sarà liberato da tutte queste dinamiche neocoloniali e neoimperiali che lo dominano. Quindi sono veramente sicura, appunto sono veramente convinta che questa nuova ondata di dignità che sta attraversando il popolo arabo possa, prima di tutto, non si dimenticherà della Palestina e che anzi sta lottando anche per un cambiamento appunto, che poi porti alla liberazione della Palestina e soprattutto che questa nuova ondata di lotte possa ispirare positivamente i giovani palestinesi e così è già stato, perché quello che dicevamo prima, ci sono già stati dei movimenti che hanno tentato anche dei movimenti appunto di giovani palestinesi all'interno della base palestina e anche fuori tra i giovani palestinesi in esilio, che hanno tentato di ribadire questo concetto di questa voglia appunto di dignità, di giustizia, anche questo rigettare una leadership che è appunto percepita come un collaboratore dell'occupazione. Sono tutti segnali, appunto, sono tutti risultati di quella che è stata questa nuova ventata di freschezza che hanno portato le rivoluzioni arabe. Sì, tra l'altro ricordiamo che a queste rivoluzioni la Palestina ha dato anche molto perché parlando nel maggio 2011 con i compagni egiziani che si occupavano di solidarietà al popolo palestinese, ricordavano come in questi paesi in cui ogni manifestazione veniva duramente repressa dal regime del buon Mubarak, come invece abbiano avuto possibilità e capacità e la possibilità di sperimentare l'autorganizzazione proprio sulle campagne a sostegno del popolo palestinese, quindi si parla delle manifestazioni a sostegno dei palestinesi durante la seconda intifada o magari anche si esce fuori dalla Palestina contro l'aggressione statunitense all'Iraq. Però diciamo che almeno qua in Italia, non so se nella sinistra in Giordania e in Palestina si fanno questi discorsi, almeno in Italia molta gente tende a differenziare le rivoluzioni con una divisione in sostanza tra i popoli che si sono rivoltati contro i dittatori amici dell'Occidente, in questo caso l'esplicito riferimento era alla dittatura yemenita, quella egiziana e quella tunisina, mentre si parlava poi di presunte dittature invece antiimperialiste, che se anche comunque non avessero, sebbene non fossero questo granché, comunque avevano dato un sostegno al popolo palestinese. Si parlava direttamente della Libia di Gheddafi e della Siria di Bashar al-Assad. Nel vostro movimento, secondo voi, c'è questa distinzione? C'erano i dittatori buoni e i dittatori cattivi? Guarda Emanuele, quello che ti posso dire è che chiaramente siamo ovviamente consapevoli delle difficoltà di fare analisi che tengano in considerazione di tutte le varie e diverse e complesse dinamiche geopolitiche, ma detto questo, noi siamo anche consapevoli che non si può non sostenere un popolo che chiede giustizia e dignità in qualsiasi situazione questo avvenga. Noi crediamo che la lotta del popolo palestinese non sia, come dicevo prima, soltanto una lotta per l'indipendenza, ma sia una lotta rivoluzionaria per la liberazione. E in quanto movimento rivoluzionario non si può assolutamente accettare l'incapacità di prendere posizione a fianco dei popoli che stanno lottando contro dei dittatori che rimangono tali, così appunto incapacità che ha caratterizzato purtroppo la leadership, tra virgolette, del movimento palestinese fino ad oggi. Quindi su questo ti posso dire che il nostro movimento è un movimento che si riconosce come parte del popolo e accanto al popolo. Pensiamo, oltretutto, va bene, uno dei fondatori del movimento, nonché rappresentante del movimento in Siria, Khaled Bakrawi è stato, ha perso la vita per lottare insieme ad un popolo che chiedeva dignità e libertà in Siria, appunto. Quindi chiaramente ci troviamo solidali con la lotta del popolo siriano e con la lotta di tutti i popoli arabi che stanno tentando, appunto, di liberarsi dal gioco oppressivo di queste dittature. Non facciamo differenze, con tutto che poi, ovviamente, come ti ho detto, come ho precisato già all'inizio, ci rendiamo conto che le dinamiche geopolitiche a volte rendano difficile l'analisi, ma poi quando si tratta, appunto, di una rivoluzione popolare, purtroppo non si può rimanere neutrali, bisogna assumersi le responsabilità di camminare insieme ai popoli, soprattutto, appunto, popoli che stanno lottando e che hanno lottato con noi per più di 60 anni, soprattutto nonostante queste rivoluzioni poi possano avere dei momenti drammatici come quelli che abbiamo visto più volte in questi anni, e nonostante, appunto, le rivoluzioni non siano perfette. Questa, oltretutto, è stata un'analisi che anche, insomma, da parte del coordinatore generale del movimento ha voluto rendere pubblica, ed ha poi pubblicato, appunto, un articolo in cui spiegava proprio questo, spiegava come nonostante le rivoluzioni non siano belle, non siano perfette come uno se le possa immaginare, rimane una nostra responsabilità quella di sostenere un popolo che lotta. E ritengo, oltretutto, appunto, l'incapacità di percepire questi cambiamenti, l'incapacità di capire quanto questi cambiamenti siano anche importanti per la nostra lotta di liberazione, l'incapacità, appunto, da parte delle varie fazioni palestinesi sia un dramma, sia proprio la dimostrazione di quanto queste fazioni e questi leader siano lontani dal popolo palestinese. E infatti proprio su questo volevo arrivare, ti volevo chiedere se ci potevi fare una breve panoramica su come le organizzazioni palestinesi ufficiali si sono poste nei confronti di questi movimenti. Allora, sì, guarda, è molto, me la fai molto facile, nel senso che probabilmente avrai letto anche tu, avrete letto tutti quanti la lettera che ha inviato Abu Mazen per congratularsi con Bashar Assad per la rielezione. C'è poco da dire, nel senso, spesso e volentieri le fazioni palestinesi hanno giocato a fare la politica, si sono comportati come dicevo prima, come grandi forze politiche di stati che giocano a fare la diplomazia, fondamentalmente. Spesso e volentieri sono rimasti neutrali, silenti, hanno preferito ignorare o non esporsi direttamente su quanto sta succedendo nella regione, hanno continuato a analizzare la lotta palestinese, quanto sta succedendo in Palestina e quanto potrebbe succedere in Palestina, quali sono le prospettive per la nostra lotta, per le possibili strategie, eccetera, in maniera completamente asettica, in maniera circondati da una neutralità che poco si giustifica e che poco si sposa con gli ideali, appunto, rivoluzionari dai quali e sui quali loro stessi erano nati. Scusa, quindi, se ti interrompo, anche sì. Perché sennò se succedesse un qualcosa di simile in Palestina, questi soggetti sarebbero i primi a essere spazzati via, credo, insomma. Sicuramente. Non hanno più una base, una legittimità popolare reale, cioè è una cosa piuttosto inquietante in realtà. I partiti hanno avuto un ruolo fondamentale nella vita e nell'organizzazione, appunto, popolare palestinese, ma hanno completamente perso questo ruolo perché non riescono più ad assumersi la responsabilità di guidare il popolo verso una lotta che sia veramente di liberazione. quello che vivo io qui in Giordania e che poi per quello che mi raccontano anche i nostri compagni dalla Palestina, appunto, succede anche lì, c'è fondamentalmente un disinteressamento dei partiti per tutto quello che sta succedendo all'interno della regione. Paradossalmente partiti anche, diciamo, con una fortissima prospettiva, diciamo, panaraba o comunque di solidarietà tra popoli, che in questo senso hanno assunto un atteggiamento molto più nazionalista, ed è una cosa piuttosto ingiustificabile dal mio punto di vista. E tu hai citato prima la lettera di Abbas, la lettera di congratulazioni ad Abbas diretta a Bashar al-Assad. Noi l'abbiamo non solo letta con nostro grande terrore, abbiamo dato anche notizie qua in radio. Lettera di Abbas che arriva arriva nel contesto siriano, dove il popolo palestinese ha forse subito le sofferenze maggiori degli ultimi 3 anni per quanto riguarda le rivoluzioni arabe. Di fatto, nello specifico, sto parlando della chiusura dell'assedio del campo di Yarmouk e anche degli altri campi palestinesi, assedio e bombardamento appunto dei campi. E tu citavi Khaled Bakrawi, che insomma, quando è morto anche noi ne abbiamo dato notizia da questi microfoni. Ora sembra che si sia arrivati ad un accordo, anzi, come dicevamo lo scorso venerdì a Comuni, a più che altro a una capitolazione, a una resa degli abitanti dei campi profughi, che hanno stretto appunto questo patto con le forze del regime siriano per riaprire finalmente il campo e permettere l'accesso l'accesso dei beni di prima necessità alla popolazione che ormai è allo stremo e quotidianamente muore di fame. Patto che però, a quanto ci risulta fino ad adesso, ancora non è stato rispettato. Come la vedete questa situazione di Yarmouk nello specifico e le sofferenze dei profughi palestinesi in generale? Sì, appunto, come dicevi tu, questo patto, almeno per quanto mi risulta, non è stato rispettato. Io sinceramente, ovviamente è difficile farci un'idea così immediata, però penso onestamente che è difficile che questo patto porti effettivamente a dei risultati, perché è un po' decontestualizzato da quello che è la situazione in Siria in generale. Quindi è chiaro che noi speriamo che le sofferenze dei palestinesi, non solo palestinesi, perché poi appunto ci sono anche dei siriani ovviamente che vivono nel campo, possano essere alleviate, però credo obiettivamente che sia difficile in questo modo. Quello che noi pensiamo di questo accordo in realtà è quello che si rifà un po' a quella che è la nostra visione in generale sulla condizione dei palestinesi a Yarmouk o negli altri campi, e cioè che i palestinesi sono rimasti soli perché la loro leadership, tra virgolette, appunto, li ha lasciati soli. Crediamo appunto che la condizione dei rifugiati palestinesi, appunto dei profughi palestinesi lì, sia emblematica di quella che è poi la situazione del movimento palestinese in generale, cioè un movimento che ha tagliato fuori completamente la questione dei rifugiati da qualsiasi tipo di progetto politico. E questo è il risultato, appunto, un popolo lasciato a morire di fame di fatto. Questo è anche dovuto all'incapacità della leadership palestinese, di tutte le varie fazioni palestinesi, di prendere una posizione chiara e seria su quanto sta avvenendo in Siria. Il completo abbandono di questa popolazione, di questo popolo, che rimane un popolo palestinese. Abbandono che però non è diciamo, non caratterizza anche il popolo palestinese, perché come forse ti ricorderai, già all'inizio dell'embargo su Yarmouk, nella stessa Palestina erano state fatte più manifestazioni da parte di giovani e meno giovani palestinesi anche di fronte al Mukata, alla sede dell'autorità palestinese, per chiedere che appunto si facesse qualcosa per questa per questa gente che è la nostra gente. Credo che allo stesso tempo appunto Yarmouk ha assunto un valore anche simbolico da questo punto di vista, no? Di resistenza, di campo che lotta, che muore di fame e che resiste, ma Yarmouk, come dicevano appunto in queste manifestazioni, Yarmouk è Palestina, ma se posso permettermi aggiungerei che Yarmouk è anche Siria. Quindi quello che sta succedendo a Yarmouk racchiude un po' tutto quello che sta succedendo nella regione, perché volevo appunto dire che Yarmouk è Palestina, Yarmouk è anche Siria e anche la Siria è Palestina, perché ogni lotta che viene condotta per riportare giustizia e dignità ad un popolo oppresso è una lotta che si unisce a quella della rivoluzione palestinese. E quindi sì, insomma, quindi credo che bisognerebbe fare un sacco di mea culpa su quello, per quello che sta succedendo a Yarmouk e in Siria in generale. Tra l'altro tu parlavi di state building, la mentalità dello state building della Sulta, dell'autorità nazionale palestinese, e effettivamente Abbas fece una delegazione internazionale che si incontrò con il governo siriano, però mandando come emissario una delegazione di bassissimo profilo che rappresentata dal ministro del lavoro, nemmeno il ministro degli esteri, insomma, per quello che era, per una situazione umanitaria gravissima che riguardava appunto il campo di Yarmouk, che è sempre stata considerato come il centro della diaspora palestinese, il centro culturale di resistenza. Quindi questo secondo me è anche un po' un sintomo e di un'incapacità dell'autorità nazionale di fare lo Stato sebbene lo voglia, e anche di come tutta la faccenda, la questione dei profughi sia stata totalmente accantonata appunto in quello, per una situazione, per quello che era appunto il maggior campo profughi, il maggior centro appunto culturale e politico della diaspora palestinese. Sì, un centro che è stato appunto fino ad ora probabilmente il centro più vivo anche della resistenza palestinese. Da Yarmouk sono partiti appunto i giovani che poi nel 2011, se non mi sbaglio, erano arrivati al confine a confrontarsi anche con i militari sionisti nell'occasione della Nakba, appunto. E della Naxa, sì. Yarmouk era veramente un centro veramente vivissimo dal punto di vista, appunto, come dicevi tu, culturale e politico. È inaccettabile anche se ci pensi il fatto che questo accordo, a quanto mi risulta almeno, non abbia visto nessun tipo di partecipazione da parte dell'OLP. Cioè, è incredibile il fatto che abbiano completamente delegato ad altre forze, ad altri attori, la decisione sulla vita e sulla morte di Yarmouk. È inaccettabile sinceramente per qualsiasi palestinese questa cosa. Yarmouk rimane, ti ripeto, un centro, una parte fondamentale della storia della Palestina, e di fatto li abbiamo lasciati da soli di fronte ad una nuova Nakba ed anche peggio. E tu mi hai dato un piccolo spunto di riflessione. Tu parlavi prima, appunto, parlavamo dell'abbandono dei profughi e di come le organizzazioni palestinesi siano ormai molto poco rappresentative di ciò che si muove sul campo. A livello, possiamo dire, rappresentativo, abbiamo visto le elezioni del cosiddetto Parlamento palestinese che hanno riguardato i palestinesi che vivono in West Bank e a Gaza, e che, comunque, a quanto io sappia, hanno escluso completamente sia i palestinesi in diaspora che i palestinesi che abitano nei territori del qua, occupati nel 1948. Certo. Che tipo di rappresentanza hanno oggi questi due settori, pure molto importanti, che costituiscono forse più di metà del popolo palestinese, all'interno della politica palestinese? No, guarda, assolutamente nessuna, io direi. E ti spiego, cioè ti dico anche perché sono così netta in questa definizione, perché praticamente adesso, senza entrare nelle varie dinamiche, nei vari meccanismi di rappresentazione, di rappresentanza, scusami, che caratterizzano, diciamo, le varie istituzioni dell'OLP, non c'è stato nessun tipo di cambio, anche generazionale. Cioè le persone, i rappresentanti, gli eletti all'interno del Consiglio del Parlamento, diciamo, palestinese, sono rimaste le stesse da almeno 30 anni a questa parte. I palestinesi venivano rappresentati e praticamente sceglievano, tra virgolette, i loro rappresentanti nelle varie dislocazioni geografiche nelle quali si trovano, non con un voto diretto, ma semplicemente con elezioni praticamente dei vari sindacati, delle varie unioni, no? Come dicevo prima, che effettivamente per una parte della storia palestinese, in particolare, diciamo, negli anni 60 e 70, riuscivano effettivamente ad essere l'espressione di quello che era la voce popolare e l'attivismo l'attivismo di base tra la gente. Questi rappresentanti entravano poi a far parte del cosiddetto Parlamento palestinese e quindi poi, insomma, interagivano con i vari consigli esecutivi e i vari organi appunto dell'OLP. Come ti dicevo, però, questi sindacati, queste unioni hanno perso completamente di senso dagli inizi degli anni Ottanta. Non hanno avuto più nessuna capacità di rappresentare la popolazione nelle sue diverse dislocazioni geografiche. Tra parentesi, devo aggiungere questa cosa che non è poco, che i palestinesi del 48 non hanno praticamente mai avuto accesso a questo tipo di rappresentanza, non sono mai stati veramente parte dell'OLP, anche a livello formale, e insomma invece anche gli altri settori della popolazione, quindi quelli in esilio, sia nei paesi arabi che in altri paesi, venivano fondamentalmente, diciamo, rappresentati da questi rappresentanti delle varie unioni e dei vari sindacati. Ti dicevo che negli anni Ottanta, appunto, queste organizzazioni hanno perso completamente di significato, hanno perso la loro capacità di rimanere a contatto con il popolo per una serie di motivazioni che vanno ritrovate un po' nel cambiamento sia organizzativo delle istituzioni dell'OLP, sia in quello che dicevamo prima, cioè questo cambiamento nel discorso politico, nella visione politica che ispirava l'OLP e che avrebbe dovuto ispirare le strategie dell'OLP. Quindi quello che è successo è che l'OLP comincia a spostare la sua strategia verso questo pragmatismo da state building. Allo stesso tempo perde la sua connessione con il popolo, perché nell'82 appunto viene forzata a lasciare Beirut, diventa una macchina burocratica farraginosa, esattamente, e queste due cose, queste due trasformazioni insieme hanno portato ad un disfacimento proprio della componente popolare all'interno del movimento di liberazione, capito? Quindi da quel momento in poi io anche a costo di risultare un pochino troppo netta nelle mie considerazioni, però penso che da quel momento in poi il movimento non abbia mai veramente potuto vantare una forte legittimità popolare. Ha tentato di recuperare legittimità popolare basandosi su quello che era stato il successo della prima intifada, cercando appunto di portare avanti una dichiarazione di indipendenza che, al di là delle bellissime parole che hanno appunto composto la dichiarazione, poi di fatto rimaneva un altro tentativo di portare avanti un pragmatismo abbastanza fuori luogo, e però appunto, cioè, tutto questo ha portato soltanto a Oslo, e da Oslo siamo andati solo, insomma, abbiamo soltanto peggiorato. Quindi, quindi ti ripeto, questo movimento non è assolutamente rappresentativo al momento. Questa analisi di fatto sulla mancanza di legittimità e sulla mancanza di rappresentatività dell'OLP è un'analisi che è condivisa dalla stragrande maggioranza della popolazione palestinese, tant'è che proprio nel 2011 e proprio sulla spinta delle rivoluzioni arabe era addirittura iniziata tra i giovani palestinesi in esilio una campagna che richiedeva appunto una trasformazione del meccanismo di rappresentanza dell'OLP, che si rifacesse a voto diretto per ogni palestinese e che chiedeva appunto che si indicessero delle elezioni di tutto il popolo palestinese, quindi inclusi i rifugiati, i profughi, ovunque essi fossero. Sì, tra l'altro, facendo questa stessa domanda su questa riforma dell'OLP qualche mese fa un compagno dei giovani palestinesi di Roma, Mamun, lui ci disse: guarda, dei minorenni non possono mettere, come diciamo un proverbio arabo, dei minorenni non possono mettere incinta una donna anziana, quindi dei minorenni politici come le organizzazioni palestinesi è complicato che riescano a mettere rendere feconda una vecchia signora come l'OLP. E tra l'altro anche il sociologo Jamil Hilal, che stava a Roma lo scorso settembre, ci ricordava come lui, da membro del Parlamento dell'OLP, stava cercando disperatamente di dare le dimissioni da quell'organo, solo che non si riunisce dal 93 e quindi aveva qualche difficoltà burocratica nel poter almeno andarsene dignitosamente da questa organizzazione. Sì, no, volevo dire semplicemente anche insomma con il convento di Mahmoud, volevo aggiungere che appunto esattamente come diceva lui, una riforma di questo tipo dal mio punto di vista è anche abbastanza se mai si dovesse anche verificare, insomma, non avrebbe in realtà nessun risultato, appunto, perché ritorno sempre al concetto iniziale di doversi unificare intorno ad un principio e ad una visione che sia veramente condivisa e che sia espressione della volontà del popolo veramente. Questo, cioè, di nuovo, per un movimento di liberazione parlare a questo punto di elezioni quando ormai è diventato così confuso la piattaforma politica sulla quale in teoria dovremmo mobilitarci è piuttosto diciamo inutile, no? Nel senso, prima di tutto bisognerebbe riuscire a riorganizzare la gente, ricominciare a parlare davvero di quello che dobbiamo fare, cioè di una rivoluzione, di una lotta che abbia come principio portante il ritorno dei profughi insieme connesso alla liberazione della Palestina, e poi a quel punto ovviamente possiamo riorganizzarci come strutture, possiamo pensare a qual è il meccanismo migliore per assicurarci che i palestinesi possano esprimersi, però appunto, come diceva Fanon, in una rivoluzione c'è bisogno non di delegare con una rappresentanza qualsiasi, in un'istituzione qualsiasi, la voce della gente che deve lottare, ma di mobilitare la gente sulla lotta e quindi attivarli tramite associazioni, movimenti, unioni, sindacati, radio, chi più ne ha più ne metta, insomma, questo oggi manca. Quindi anche parlare appunto di riattivare un meccanismo e un'istituzione quando poi la gente invece non sa come deve lavorare e in che direzione sta andando, penso che sia abbastanza, diciamo così, un po' inutile a questo punto, no? Non solo, ma è un problema che credo che con le dovute proporzioni abbiamo anche qua in Italia all'interno della nostra sinistra. Sì, sono assolutamente d'accordo con te. E senti, Miriam, se hai qualcosa, vuoi aggiungere qualcosa, se no, se vuoi lasciarci qualche recapito informatico o di altra natura per essere aggiornati sulle attività o i comunicati del PYM. Sì, guarda, no, non aggiungo niente, penso di aver parlato anche troppo. però sì, guarda, ti lascio volentieri il sito del movimento, se vi va. Aspetta, sì, sì, ci va, ci va. Praticamente pal-youth, che insomma scritto youth.org. E poi niente, invece per chi ci cerca in Italia abbiamo un'email, al momento solo quella, che è PYM Italia, che si, insomma, facendo lo spelling PYM Italia, @gmail.com. Quindi. E allora noi ti ringraziamo, noi ribadiamo ovviamente la nostra solidarietà totale alla lotta del popolo palestinese fino alla liberazione e al ritorno. Vi chiediamo di rimanere un attimo in privato e noi mandiamo un po' di musica. Oh. E ritorniamo in onda, e ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi sulla Palestina occupata. Abbiamo sentito appena adesso l'intervista a Miriam, compagna del PYM, il Palestinian Youth Movement, e abbiamo appena sentito una traccia musicale dei Dem, gruppo palestinese proveniente dalla Palestina occupata nel 1948, la cosiddetta Israele, e la canzone era Dabka on the Moon, tratta dal loro ultimo album Dabka on the Moon, e ora noi riprendiamo con il nostro consueto giornale radio. Trovati i corpi di tre coloni catturati dalla resistenza. I sionisti aumentano la repressione. Lunedì sera l'esercito sionista ha dichiarato di aver trovato in West Bank i corpi dei tre coloni catturati lo scorso 12 giugno vicino alla colonia illegale di Gush Etzion. A seguito della notizia, le forze dell'occupazione hanno intensificato la campagna di repressione contro la popolazione palestinese, intensificando i checkpoint, i sequestri, gli omicidi di civili ed i bombardamenti in aree densamente popolate. Ieri, ad Al-Quds, Gerusalemme, un giovane di 16 anni, Muhammad Abu Qdeir, è stato rapito da un gruppo di coloni e il suo corpo è stato ritrovato, torturato e bruciato in un'area boschiva nei pressi della città. E il 68% dei palestinesi è preoccupato per la situazione economica. Un sondaggio eseguito dal PCPO ha rivelato che più della metà degli intervistati sostiene di essere preoccupato di non poter mantenere le proprie famiglie. Il campione, composto da maggiorenni che abitano nei territori occupati nel 1967, ha dichiarato di temere che la situazione economica peggiorerà, soprattutto nella striscia di Gaza, costretta da 8 anni a subire un embargo economico quasi totale. L'economia palestinese ha cominciato a vacillare soprattutto in seguito agli accordi di Parigi, che governano i rapporti economici tra l'autorità palestinese e l'entità sionista, quando hanno cominciato a essere smantellati gli apparati produttivi a favore della crescita dell'economia del settore terziario, fondata sulle organizzazioni non governative. La Palestina è sull'orlo di una terza intifada. L'analista sionista Ron Ben Ishai ha dichiarato che nelle manifestazioni in West Bank e i lanci di razzi dalla striscia di Gaza sono i prodromi di una nuova intifada. L'esperto in sicurezza ha aggiunto che dallo scoppio delle primavere arabe nel 2011 le forze di occupazione si sono preparati ad affrontare una sollevazione interna. Thank you. e l'occupazione investe per la giudaizzazione della città, Gerusalemme. Domenica scorsa il governo sionista ha approvato un progetto quinquennale per lo sviluppo socio-economico della parte orientale della città di Gerusalemme, con lo scopo di impedirne qualsiasi partizione futura. I fondi, circa 90 milioni di dollari, dovrebbero essere utilizzati per delle attività integrate di miglioramento delle infrastrutture, dell'occupazione lavorativa, dell'educazione e dello stato sociale, senza però spiegare con quali metodi. Gli unici dati sicuri sull'utilizzo di questo denaro riguardano la sicurezza. Circa 30 milioni infatti verranno assegnati per l'installazione di telecamere di sicurezza e per aumentare la presenza della polizia sionista nelle strade. E passiamo alla West Bank, a Betlemme, dove il governatore bandisce i cocomeri sionisti. Il governatore di Betlemme ha diramato un'ordinanza che vieta la vendita nei mercati cittadini di cocomeri provenienti dall'entità sionista. Questa decisione è avvenuta in seguito a una controversia tra i ministri dell'agricoltura palestinese e sionista che per qualche giorno si sono minacciati di mutuo boicottaggio fino a far cedere la parte palestinese. E con l'inizio del Ramadan, l'occupazione inizia la propaganda anti-Hamas. Sabato, nelle maggiori città della West Bank, le forze d'occupazione hanno distribuito delle lecca-lecca per incitare la popolazione contro il movimento di resistenza islamico. I dolci erano decorati con una frase che recitava «Felice Ramadan, ecco un po' di dolci» dopo che Hamas ha reso più amara la vita in West Bank. Nelle scorse settimane le forze d'occupazione hanno condotto una campagna simile distribuendo frasi di propaganda stampate su scatole di fiammiferi. E passiamo alla striscia di Gaza, dove la resistenza colpisce una fabbrica. Sabato sera le brigate Nasser Saladin, braccio armato dei comitati di resistenza popolare, hanno lanciato 4 razzi nei territori palestinesi occupati nel 1948. Uno di questi ha colpito una fabbrica, mentre gli altri 3 sono caduti senza provocare danni agli occupanti. E passiamo alle carceri, dove si è definitivamente concluso lo sciopero della fame. Lunedì e mercoledì gli ultimi 2 prigionieri in sciopero della fame contro la detenzione amministrativa hanno dichiarato di aver interrotto la loro protesta ed hanno ringraziato tutti i prigionieri per il sostegno ricevuto. I 2, Aymant Beish e Raid Moussa, in sciopero rispettivamente da 122 e 43 giorni, hanno dichiarato tramite i propri rappresentanti legali di aver trovato un accordo con le autorità carcerarie sioniste. La scorsa settimana 125 palestinesi hanno interrotto uno sciopero di massa che durava da 2 mesi per la solidarietà con il proprio popolo che sta subendo la repressione sionista a seguito della cattura dei 3 coloni. E più 27% di arresti nel 2014. E Il Dipartimento Statistico del Ministero dei Detenuti ha dichiarato che nel primo semestre del 2014 le forze di occupazione hanno rapito 2.478 palestinesi, segnando un incremento del 27% rispetto allo stesso periodo del 2013. Tra gli arrestati ci sono 412 bambini, mentre un quarto del totale, 600 persone, è avvenuto nelle ultime due settimane di giugno come punizione collettiva per la cattura dei tre coloni. E passiamo agli aggiornamenti dall'entità sionista, dove le forze sioniste caricano la manifestazione dei richiedenti asilo. Lunedì la polizia sionista ha sgomberato un accampamento di protesta dei richiedenti asilo africani vicino al confine egiziano, arrestando 1.000 persone e ferendone a decine. I manifestanti protestavano contro le condizioni inumane di vita nel carcere per immigrati di Holot e chiedevano o che gli venisse riconosciuto lo status di rifugiati o che gli venisse permesso di ritornare in Egitto. Dall'approvazione della legge contro l'immigrazione lo scorso dicembre, il governo sionista ha carcerato senza processo più di 2.500 richiedenti asilo, mentre i gruppi per i diritti umani hanno calcolato che dall'inizio dell'occupazione nel 1948 è stato concesso lo status di rifugiato a meno di 200 persone. E passiamo agli esteri, all'Italia, dove gli attivisti romani vanno contro il turismo dell'occupazione. Sabato 28 giugno gli attivisti romani della campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro l'entità sionista hanno corretto delle pubblicità che invitavano a viaggiare nella Palestina occupata nel 1948. L'azione è avvenuta in decine di stazioni della metropolitana capitolina ed ha riscosso l'approvazione dei passeggeri. Oggetto delle azioni erano le pubblicità della Eden Viaggi, affisse assieme al Ministero sionista del Turismo. E rimaniamo in Italia, dove i sionisti romani aggrediscono i solidali con il popolo palestinese. Martedì 1 luglio, dei picchiatori sionisti provenienti dal quartiere ebraico della capitale hanno aggredito un ragazzo di 27 anni perché indossava una cuffia. Il giovane ha subito l'aggressione mentre si recava ad un presidio di solidarietà indetta dai giovani palestinesi di Roma per manifestare la vicinanza degli internazionalisti italiani con il popolo palestinese vittima della repressione sionista. In serata poi un'altra squadraccia ha deturpato i muri della delegazione dell'autorità palestinese, arrivando addirittura ad esplodere dei colpi d'arma da fuoco contro l'edificio. E passiamo all'Algeria, dove la nazionale donerà 9 milioni ai bambini di Gaza. I giocatori della nazionale di calcio algerina hanno dichiarato di voler devolvere il ricavato della loro partecipazione ai mondiali in Brasile, circa 9 milioni di dollari, ai bambini della striscia di Gaza. Cosa che i nostri non faranno mai. Dai, Algeria. E passiamo alle iniziative. 7 luglio a Milano, serata di solidarietà con i prigionieri palestinesi. La rete Meneghina di solidarietà con la Palestina ed il collettivo Palestina Rossa organizzano una serata di solidarietà con i prigionieri politici palestinesi. Alle 19.30 ci sarà un buffet palestinese per sostenere Adamir, un'associazione di supporto ai detenuti politici. Alle 21 verrà proiettato Women in Struggle, un documentario su quattro ex detenute. L'iniziativa sarà il 7 luglio, dalle 19.30, presso la cooperativa La Liberazione, via Lomellina 14, Milano. E questa era l'ultima notizia per oggi e per questo anno politico. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci ascoltato in questa stagione radiofonica. Abbracciamo tutti i nostri ascoltatori e tutte le nostre ascoltatrici che speriamo che almeno loro possano andare in vacanza. Ricordiamo di rimanere in contatto con le frequenze di Radio Default, perché prossimamente daremo sia gli aggiornamenti sull'udienza del processo Adriano e Gianluca che si terrà domani, sia daremo notizia in maniera tempestiva di qualsiasi mobilitazione che si terrà sul territorio romano dei castelli romani a sostegno della popolazione palestinese sotto il costante attacco della repressione sionista. Noi vi auguriamo buona libertà a tutte e a tutti. Ricordiamo velocemente i contatti della radio: www.radiodefault.it per essere aggiornati sui nostri palinsesti e sulle nostre iniziative, la nostra pagina Facebook Radio Default, che è costantemente aggiornata con ciò che sta andando in onda e sulle notizie del mondo, oppure potete venirci a trovare nei nostri studios di Genzano di Roma, siti in via Guido Baldi 56, potete venire a trovarci, a pigliarvi una birra e a sostenerci, soprattutto nel mese di agosto, dove le iniziative sono di meno e maggiore deve essere l'esborso militante per sostenere una radio che non campa di aria, ma campa solo delle sottoscrizioni di chi l'ascolta, di chi la ama e di chi la vive. Quindi noi vi diamo appuntamento a settembre e vi auguriamo quindi buona libertà a tutte e a tutti da questi microfoni nei castelli romani, in Italia e in Palestina. بتأسف الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي